piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Sono 12 settimane che non prendiamo un euro, qui c'è gente che ha chiuso l'attività in soli 2 mesi. Sono stati nelle case, hanno messo il c***o. Hanno inventato un bluff, il Covid è un bluff, il più grande bluff della storia, con cui un potentato economico finanziario, la finanza virtuale mondiale, indebolisce gli stati e li compra, quindi tutti gli asset economici dell'Italia finiranno male, arriveranno i cinesi di merda, arriveranno i tedeschi di merda e compreranno l'Italia. Non comprano l'Italia, noi siamo qua per difendere l'Italia, ci siamo noi. È chiaro che quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo visto della manifestazione del 30 maggio a Milano e Roma soprattutto, non fa testo, fa parte di una fetta di italiani che in questo momento trova conforto o in qualche maniera viene portata a trovare conforto su quelli che sono i più ridicoli luoghi comuni, le leggende metropolitane. Si è visto un ex generale con una ridicola giacchetta arancione dire davanti al Duomo di Milano che colpa dei trasmettitori del 5G se oggi abbiamo il Covid. E la gente ci credeva, perché nei momenti di estrema disperazione, di estrema mancanza di punti di riferimento, di contenitori di senso, è come se ci fossero dei vuoti che è facile riempire appunto con tutte le narrazioni le più suggestive. Io stesso mi sono trovato in bicicletta con mio figlio a passare in mezzo ai marciatori su Roma, Piazza Venezia, provato a chiedere: ma chi siete, per cosa manifestate? Siamo il popolo, rappresentiamo l'Italia in questo momento contro questi infami che ci vogliono affamare. Beh, questa è una narrazione che penso che domani in qualche maniera riapparirà alle cronache, perché il 2 giugno, la festa nazionale più solenne, quella che in qualche maniera rappresenta il momento di massima sintesi di tutti i nostri valori repubblicani, in qualche maniera sarà presa comunque e aggredita, mordicchiata per quanto possibile a questa facile maniera di leggere il disagio generale. Eppure vi ricordate, soltanto un paio di mesi fa e poco più, questo accadeva dai balconi degli italiani. Pensate quanto è facile in 2 mesi avere una percezione così opposta, così diversa delle parole dell'inno nazionale, cantato in piazza con rabbia, cantato dai balconi con un senso di coesione in un momento di cui ancora non si capivano, non si percepivano bene i margini. Beh, è interessante capire in tutto questo dove sono i punti di riferimento, o perlomeno dove ognuno di noi colloca i propri punti di riferimento. Esiste un paese, ma che non è una caratteristica nazionale, una volta tanto non possiamo sentirci prigionieri o fieri dei nostri luoghi comuni più percepiti nel resto del mondo. No, noi più o meno seguiamo un iter che seguono anche altri nazioni, altri popoli, veniamo prima colti da qualcosa che avevamo sottovalutato, che pensavamo fosse poco più che una semplice influenza, siamo resi conto che la gente moriva, moriva a bizzeffe, si vedevano immagini tragiche che colpivano alcune parti del nostro paese, nella carne e nell'immaginario tutto il resto del paese che stava chiusa dentro casa, improvvisamente privata di quelle che sembravano delle banali libertà acquisite insindacabilmente sottoposte alla nostra perenne fruizione per tutta la vita. Eppure non è stato così. Poi lentamente si esce da una zona piuttosto triste, e si comincia a vedere dei bagliori di realtà diversa, di possibile ritorno alla normalità. E questi bagliori possono essere interpretati in maniera soggettiva. C'è chi dice tutto finito, c'è chi dice non solo tutto è finito, ma è stata tutta una grande manovra, un'illusione, un complotto. Chi invece continua a rimanere dentro casa, chi si guarda intorno è sconcertato, chi ha perso i suoi punti di riferimento. E fondamentale appare che in questo momento in realtà ciò che conta è, oltre alla salvaguardia della propria salute, della propria incolumità, della propria vita, anche il ritorno a quello che per noi era l'attività fondamentale, quello che ci segnava socialmente, ci dava dignità di esistenza, ci dava possibilità di vivere quel conquistato progresso, quel conquistato relativo benessere, soggettivo benessere, in ragione di quanto noi avessimo la dignità di avere un lavoro, la possibilità di svolgere un lavoro. E oggi il lavoro viene ripresentato sotto punti di vista totalmente diversi. Ancora una volta mancano i punti di riferimento classici, tradizionali, che ci davano comunque una sicurezza. Per molti il lavoro è stato reinventato, rimpostato. Persone come me che da mesi lavorano da casa, non avevo mai immaginato. In 40 anni di professione mai avrei immaginato che avrei potuto tranquillamente dalla mia scrivania di fronte al mio triste e austero giaciglio poter trasmettere alla radio, quando ho sempre avuto bisogno di grandi apparati, di grandi macchine, di grandi studi e di grandi luoghi liturgici. Per altri invece è molto più tragico, per altri si è sfumata, diluita, dissipata ogni speranza di lavorare. E tutto questo cosa comporta? Comporta una possibilità comunque intanto di farci conti, guardarci e darci comunque delle gabbie in cui, gabbie nel senso di semplificazioni per capire meglio la situazione, in cui possiamo non riconoscerci. Noi lo facciamo spesso, facciamo tutti i giorni attraverso i nostri strampalati e surreali sondaggi, che però molto spesso danno un'immagine molto coerente rispetto a quella della realtà, soprattutto ora in cui la situazione ambientale, chi trasmette, chi riceve, è molto simile, o perlomeno è stata simile per molti mesi. Abbiamo visto in questi giorni una ricerca che ci è interessata perché segue un po' dei metodi, naturalmente con una dignità scientifica di analisi che noi nemmeno ci immaginiamo, però quella di avere la necessità di comunque di stabilire delle categorie in cui poter chiaramente poi chiarirsi meglio il concetto di dove vada il paese. Non lo facciamo semplicemente con un sondaggio in cui millantiamo di avere 15 esperti, ma in realtà ce lo inventiamo io e Tonti molte volte la mattina stessa. In realtà Future of Italy, che è un gruppo operativo che si dedica all'analisi e alla narrazione del percepito sociale in Italia, cioè cosa la gente pensa di essere rispetto alle relazioni che ha con gli altri esseri umani, con gli altri cittadini. Per realizzare delle strategie operative, cioè per cambiare il mondo, bisogna capire cosa siamo. Loro l'hanno fatto basandosi su un campionario di addirittura di 1.308.000 conversazioni che hanno dato modo di capire come gli italiani si vedono in questo momento e si percepiscono tra due grandi polarità, che in fondo sono i punti di partenza e di arrivo del nostro pensiero. La speranza di uscire, di cambiare, che qualcosa migliori, e la paura che qualcosa ancora ci incomba dietro le spalle. Oscar De Montigny, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e grazie per questa fantastica introduzione. Ma io è un onore per me essere un pensiero generale. Dunque, Oscar Montigny è uno delle tre realtà, adesso magari ce lo spiega meglio, che hanno fatto questo lavoro che io ho semplicemente abbozzato. Chi siete voi innanzitutto e qual è lo scopo per cui avete fatto questo lavorone di andarvi a analizzare le conversazioni di 1.308.000 persone? Allora, sì, noi siamo definiti gruppo operativo, facciamo un po' di difficoltà a scegliere così un nome, no? Perché in realtà sono io, mi hai presentato, ti ringrazio, sono presidente e fondatore di Be Your Essence, che è una startup innovativa a vocazione sociale che come imprenditore ho recentemente costituito, sebbene io poi ricopro anche un ruolo dirigenziale in un grosso gruppo bancario italiano che è Banca Mediolanum, ma quella è un'altra cosa. Io lì mi occupo di innovazione e sostenibilità, e Matteo Flora. Diciamo, quello è il lavoro, questa è la passione, mi sembra di capire. Ad un certo punto ho deciso che gli stessi valori che mi guidavano nell'azienda, insomma, dovevano un ruolo di grande responsabilità e che spero, insomma, di meritarmi. Però volevo anche contribuire, stare dall'altra parte, no? E mettere a disposizione le mie conoscenze, le mie competenze. L'ho fatto insieme a un'altra trentina di soci fondatori, tutti professionisti, manager, gente, devo dire, molto ben collocata nel tessuto sociale e lavorativo del nostro paese. Abbiamo costituito questa avventura e ci mettiamo al servizio delle grosse organizzazioni per fornire orientamento e quindi progettualità su tutto ciò che sono, a mio parere, i due grandi stream del futuro del paese, del mondo e quindi anche del lavoro, che sono l'innovazione e la sostenibilità, purché si tenga l'essere umano al centro. Ecco, in questo momento, un momento molto difficile, Oscar Di Montigny, ci rendiamo conto tutti che in realtà i tempi sembrano essere molto stretti, sia per fare analisi sia per proporre soluzioni. Quando le persone cominciano a scendere in piazza, ancora possiamo, se vogliamo essere ottimisti, collocarli come fenomeni folcloristici, ma mica tanto, quando cominciano a riempirsi delle piazze attorno a delle assolute fantasie come quella del 5G che fa venire il Covid, che basterebbe rifletterci un attimo. Se non esiste, perché viene con il 5G e come fa un sistema di trasmissione di dati a far venire appunto un'infezione virale? Però voi avete analizzato un campione importante, per questo è interessante parlarne, non è la solita rilevamento fatto in 448 facendo un po' di telefonate, perché 1.308.000 conversazioni sono importanti. Avete tirato fuori, questo mi diverte molto, delle categorie che un po' assomiglia al metodo che usiamo noi in maniera informale: gli spaventati, i confusi, i critici, gli speranzosi. Io vorrei questa mattina fare un esperimento. Mentre lei ci sintetizza comunque il risultato di questa analisi, vorrei chiedere al nostro pubblico di telefonare all'800240024 e ci dia conferma o testimonianza in quale categoria di quelle che sono state classificate da questo gruppo di ricerca vi trovate maggiormente collocati in questo momento particolare. Andiamo con Oscar Di Montigny allora a capire esattamente come si collocano gli italiani rispetto alla grande domanda. Da una parte c'è la paura e da una parte c'è la speranza. Esatto, allora l'analisi è stata fatta da The Fool, che è una delle altre società membri del gruppo, da Matteo Flora, che diciamo ha curato tutta la parte di analisi, e poi abbiamo provato, e grazie per averle citate, a individuare queste figure, no, quasi archetipe un po' dell'immaginario in cui poter ricondurre la narrazione, perché la narrazione è un altro dei temi fondamentali, e qui viene in gioco Andrea Fontana di Storyfactory, quindi il gruppo operativo è così composto. Sono tantissime le conversazioni, hai visto bene, e il tutto si polarizza in una sorta di dualismo proprio quasi emotivo, perché intellettuale, tra speranza e paura. Se dovessi dirti una grande sintesi, tutti si stanno aspettando un grande segnale, no? Un grande segnale in un momento in cui c'è, ahimè, mancanza di progettazione di tutti i tipi e di anche capacità di prefigurazione. Non dico immaginazione. Questo però perché è preoccupante, voglio... perché il grande segnale è sotto, si soddisfa con un messia o con un uomo forte. Questo è il grande segnale. Ci sono alternative? Mi ha già portato in un territorio molto polarizzato. Io ti direi sì, ci sono le alternative lì dove noi cerchiamo di essere, concedimi la provocazione, noi piccoli messia nella nostra sfera di influenza, no? Quindi non aspettiamo il grande salvatore e auspicabilmente non aspettiamo il grande dittatore, pur convenendo con te che i rischi poi siano quelli, un'aspettativa infinita e un dittatore che poi quando arriva va bene magari i primi 10 minuti e poi la storia ci ha già insegnato che non funziona. Dobbiamo farlo noi, dobbiamo essere capaci di prefigurare e capaci di progettare. Guarda, ti dico, le categorie le hai dette bene, sono in realtà 4. Gli spaventati sostanzialmente sono spaventati di tutto, no? Una delle 4 categorie, il futuro, il lavoro, le aziende, i lavoratori, la scuola, diciamo sono quella in questo momento più ferma, no? Sono veramente immobili, preoccupati da tutto e rischiano anche, come hai detto bene tu inizio trasmissione, di essere anche un po' rapiti da narrative un po' parallele, 5G, ci aspettiamo quasi l'improbabile ormai. Ecco, solo per capire, lo spaventato in realtà ha delle condizioni oggettive particolarmente critiche rispetto alla media degli italiani per essere spaventato, o una condizione a priori, è come l'ansioso che non si sa spiegare le ragioni dell'ansia, ma c'ha l'ansia perché è così. Hai detto bene, è veramente un mix di natura emotiva e intellettuale, quindi sia sul piano razionale che sul piano emotivo, che a volte trascende dalla condizione oggettiva della persona. Uno spaventato può essere tale anche perché, pur vivendo nell'abbondanza, magari ha paura di perdere tutto, no? E così come magari vive una situazione più compromessa, magari economicamente parlando, più delicata e fragile, è altrettanto spaventato perché teme di perdere anche quel poco che era stato capace di accumulare nella sua vita. È certamente il profilo più complesso, perché queste persone rischiano di non avere punti di riferimento in un momento in quale, prendiamo anche atto, i punti di riferimento non sono solidissimi, non sono chiarissimi, no? Abbiamo viaggiato a un decreto alla settimana per parecchi mesi. C'è un'altra categoria che poi è curiosa, sono quella dei confusi, no? La confusione nel mondo del lavoro emerge per quanto riguarda sostanzialmente la tutela delle persone. Prova a immaginare tutto ciò che è stato l'aspetto sanitario in questi giorni, no? Le mascherine, le trovo, non le trovo, me le dà l'ufficio, me le dà il governo, c'è tutto il tema. Ancora più complicato adesso, che non è chiaro come sarà la ripresa. Leggo colleghi che scrivono: ma nella nostra redazione si può tornare a stare tutti assieme, perché nella redazione in quell'altra città in realtà ancora si sta distanziati, ma noi in realtà abbiamo meno casi. E quindi comincia un'interpretazione ancora successiva. Oscar De Montigny, ci fermiamo soltanto un istante per dare la linea. Riprendiamo, abbiamo già citato comunque gli spaventati e i confusi. Poi andremo con le altre due categorie, sono gli speranzosi naturalmente e poi alla fine sono quelli che cercano in qualche maniera di operare in maniera diversa, e quindi sono quelli che si guardano, che pensano che potrebbero loro magari cambiare il mondo, e sono i critici. Ci fermiamo ancora un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. 800240024, questa mattina stiamo riflettendo su una possibile classificazione degli italiani divisi fra le due sensazioni, sentimenti opposti polarmente, che in questo momento sono i cardini su cui si svolge la nostra vita: la paura da una parte e la speranza dall'altra. Ne parliamo a seguito della ricerca fatta dal gruppo Future of Italy, che è un gruppo operativo che appunto si occupa di analizzare quelle che sono le narrazioni ricorrenti negli italiani per dare degli strumenti che poi dovrà rimpostare, ricostruire il futuro del nostro paese. Ricordo, la ricerca è fatta su un campione importante, 1.308.000 conversazioni. Gli italiani sono stati classificati per capire meglio quelle che sono appunto le necessità, i bisogni e le richieste, in spaventati, confusi, critici e speranzosi. Ringrazio Peter Bescapè e Anita Panizza che mi assistono da Milano, Fabrizio Intonti da Roma, e sentiamo Fabio da Cuneo. Fabio, buongiorno. Qualche ascoltatore, poi riprendiamo con l'ospite. Fabio, buongiorno. Buongiorno, io mi metto... Faccio la domanda, Fabio, prima che cominci. Prego. È il sentimento prevalente nelle sue giornate, da quando si alza la mattina, quando va a letto la sera? Critico. Lei è un critico, perfetto. Sì. Che non... La categoria dei critici. Critico perché comunque ritengo che su questo coronavirus non ci abbiano detto quasi niente della sua verità. Io sono un collega giornalista e da 3 mesi faccio ricerche OSINT, Open Source Intelligence, su questo tema. Ho individuato già 13 scienziati che hanno pubblicato 4 diversi studi nel mondo in merito alla teoria del coronavirus costruito in laboratorio, ed è una teoria che viene bannata da qualsiasi sito ufficiale, adducendo anche delle giustificazioni ridicole come quella di criticare un Nobel per la medicina, il quale ha avuto merito di scoprire. Fabio, l'ho lasciato parlare, ecco. Lasciato dire. Mi fa piacere che lei abbia strumenti per approfondire, approfondisca, poi quando ha elementi di maggiore certezza ce lo fa sapere. Ma in questo momento, radicalmente, cosa cambia, ammesso che poi si scoprirebbe un grande complotto internazionale? se il virus l'hanno fatto i cinesi o viene veramente dai pipistrelli e cose del genere, dal momento che in questo momento sta condizionando la nostra vita. Rispetto al condizionamento, lei fa un lavoro di inchiesta e vuole ha questa idea che ci sia stata una grande menzogna alla base di tutto. Menzogna o non menzogna, in questo momento facciamo i conti con qualcosa che ci sta condizionando la vita. E in questo vorrei capire, secondo lei, lo scoprire che è stato un grande complotto, o che sono stati il 5G, o sono state le scie chimiche, o i rettili, qualunque cosa sia, cosa cambia sostanzialmente nel fatto che comunque condiziona il nostro lavoro e la nostra vita? Ecco, questo mi piacerebbe saperlo. Al di là della soddisfazione di capire che siamo stati presi in giro, ma cosa ci cambia? No, cambia per gli atteggiamenti che potremmo avere nel futuro di precauzione nei confronti delle successive ondate già preconizzate, poiché comunque se è stato costruito in laboratorio, se c'è un complotto internazionale che non è di una sola nazione, da quanto risulta dalle mie ricerche, del complotto, ho fatto una domanda, mi risponda, cosa cambia? Cambia che so come difendermi nel futuro, perché dovrò guardarmi da tutto ciò che viene proposto da istituzioni che sono condizionate da potentati del mondo come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ormai sta dimostrando. Quindi ha ragione chi va in piazza, si butta via le mascherine e dice no, assolutamente no, perché sono come lei ha detto giustamente prima, e ho apprezzato molto il suo intervento, sono in palese contraddizione, perché da una parte dicono che il virus non c'è, dall'altra dicono che è stato il 5G a crearlo, quindi sono il paradosso, e difatti rappresentano fortunatamente una piccola minoranza, perché con l'incazzatura che c'è in Italia, portare 200 persone in piazza fa un po' ridere ed ha avuto persino troppo risalto sui media. Questo è il mio pensiero. Va bene, grazie Fabio. Elena da Firenze. Elena, buongiorno. Buongiorno. Vediamo se riesce a definire le sue categorie senza esprimere altre tesi. Sì, no, sinceramente non volo troppo in alto con i complotti, le cose. Vediamo di capire nelle quattro categorie, li ripeto: spaventati, sì, confusi, critici, allora, e speranzosi. Allora, io sono stata spaventata e confusa, perché sono stata spaventata e confusa, come tutti, penso. Vorrei all'inizio vedere chi non lo era, era una follia non esserlo all'inizio. Anche perché io sono una delle categorie che non si è mai fermata e che ho lavorato al pubblico, tra il resto, per tutta l'emergenza sanitaria. Non sono un'infermiera, non sono un medico, lavoro semplicemente in un ipermercato. E quindi però avevo... abbiamo parlato anche della sua categoria, una categoria, ecco, che sì, abbiamo all'inizio osservato come quelle che erano più a rischio, naturalmente hanno un maggior senso di partecipazione sociale, anche di sacrificio, perché alla fine per lavorare si stava più esposti rispetto a noi che sì, anche perché all'inizio, insomma, a volte settimana. Le mascherine c'erano, ecco, a volte ma non c'erano, c'è stato un cambiamento, ora, diciamo dal 3 giugno l'impressione molto generale che sì, sia tutto finito. Come la lascia questa ipotesi che sia tutto finito sia in regressione? Allora, ovviamente mi sono tranquillizzata e ho imparato un po' a prendere le misure, nel senso che le misure di distanza, le misure, insomma, che ci hanno, a quanto pare, portato ad una situazione un po' più tranquilla. Detto questo, cioè, la mia vita è continuata comunque abbastanza uguale in questo periodo, perché lavorando, anche mio compagno ha sempre lavorato, eccetera eccetera. Diciamo che ovviamente ci sono stoppate alcune cose, perché evidentemente si è fermato un po', e quindi abbiamo anche noi dovuto un attimino fermare alcune capisco, cose. Perché anch'io mi sento come lei, tutto sommato, tra i privilegiati che hanno potuto continuare a fare il loro lavoro, quindi non si sentono di dire che per loro è stato qualcosa che gli ha cambiato la vita. Abbiamo comunque lavorato in altre condizioni. Adesso ci aspettiamo che anche il resto del mondo, che ha avuto più difficoltà, possa riallinearsi comunque a qualcosa che assomigli comunque a una tipicità di conduzione di vita quotidiana. Lalla, provincia di Monza, Brianza. Buongiorno, io sono nelle categorie fragili, si fa per dire, ho 72 anni ma sono sanissimo e sto benissimo. Anch'io sono stata spaventata e un pochettino confusa all'inizio, ma sono speranzosa, non possiamo altro che sperare in un futuro non dico migliore, ma un pochettino più tranquillo. Benissimo, è una sensazione che ho proprio nel cuore. Lo sente come intuizione che adesso è stato il momento della risalita, si è toccato il fondo e si risale. Allora, Oscar Di Montigny, ha visto, in 3 telefonate siamo riusciti comunque a lambire tutte le categorie, c'è stato il critico, il confuso, gli spaventati e la speranzosa. Riconosce in queste, naturalmente senza nessuna valenza di tipo scientifico, abbiamo preso le prime 4 persone che ci hanno chiamato, ma ritrova comunque una, seppur lontana verifica a quello che è stato il vostro lavoro? Rispondenza. C'è molta risonanza anche nelle verbalizzazioni, no? Poi chiaramente l'area geografica ha significato impatti diversi, no? Abbiamo visto una differenza macroscopica tra nord e sud, però anche tra le varie regioni, e roba di pochi giorni fa ancora la diatriba, no? Tra lombardi, piemontesi, per un po' i liguri, poi sono stati colpiti i marchigiani, devo dire, è anche come si è vissuto localmente l'esperienza. C'è da dire una cosa, in questo momento c'è oggettivamente una paura latente e una carenza di riferimenti molto molto diffusa. Qui è dove arriva la proposta, no? Adesso io sono un po' terrorizzato, se lo posso dire, dall'idea del ritorno alla normalità, no? Questa narrativa, noi lavoriamo molto sulla narrativa con Story Factory, è il ritorno alla normalità, io non credo sia auspicabile in alcun modo. La normalità di prima era assolutamente una condizione migliorabile, tenderemo tutti a tornare a una sorta di comfort zone. Però io dico, il mondo per sua natura va avanti, adesso è il tempo in cui il singolo individuo, l'organizzazione è come rincontrare un ex fidanzato, un ex fidanzato dopo tanti anni, no, cioè, torna tutto come prima, non sarà mai come prima. Una delusione, no, non è così. Ma poi cos'è il concetto di normalità? Torneremo nuovamente a una dimensione di estrema soggettività che porta per sua natura un conflitto sociale, linguistico, culturale, scegliete voi. Quindi l'idea è che sia un momento importante, è come se il futuro ci fosse venuto in avanti, no? Forse un po' più velocemente di quanto ci saremmo aspettati. Siamo catapultati in una situazione di grandissima precarietà. Questo è il tempo della nuova partenza, non della ripartenza o del ritorno. Dobbiamo pensarci tutti nuovi come sistema collettivo. Qua c'è bisogno del singolo, c'è bisogno dell'insieme. Se il singolo continua ad attendere la collettività, che si chiami pubblica amministrazione, presidenza del consiglio, partito politico, non lo so, non ce la facciamo, perché il tempo di reazione è molto lento, perché siamo stati minati molto alla base. Io, tra l'altro, è stato sbagliato, se mi è consentito, molto anche la narrativa, no? Oggi noi parliamo di distanziamento sociale, ma che cos'è il distanziamento sociale? Si fa fatica a trovarlo sul vocabolario, un po' come quando è uscita la parola congiunti, no? Noi ci abbiamo scherzato, però attenzione a usare la terminologia sbagliata, perché poi la gente è priva di riferimenti per comprendere qual è l'indicazione. È qui che dobbiamo... Sì, sembra quasi una forma di classismo imposto. Sì, ma... Il distanziamento, no? Era fisico, no, sociale, diciamo. Ma l'abbiamo detto al primo giorno, lo dire. I primi che abbiamo sentito hanno detto, perché si parla di distanziamento sociale? Distanziamento fisico. Bravissimo. Chiaro. Perché la parola sociale legata al distanziamento, a livello proprio neurologico, è proprio un dato per il cervello. Non vanno insieme, cioè ha molto più valore a livello inconscio il concetto di distanziamento sociale. Però ci dico pure, noi siamo la specie apice di questo pianeta, cioè l'umanità, l'essere umano. Non saranno 2, 3, 4 metri che possono distanziarci, noi abbiamo l'intensità della prefigurazione, dei progetti, delle emozioni, cioè noi dobbiamo fondare su quello le partenze. Ma non sarà che c'è un po' di pregiudizio nelle nostre profonde radici moraliste di parlare di promiscuità, sia in senso negativo che in senso, diciamo, privativo? Non si è detto distanziamento fisico perché richiama il tema della promiscuità, invece il distanziamento sociale è più pulito, sembra meno peccaminoso, capito? A livello sociale è devastante, però è devastante totalmente. Perché io sono nella mia famiglia, nel mio nucleo degli affetti, distanziamento sociale cosa significa? No, sto ancora cercando di capire cosa significa congiunto e mi è arrivato il distanziamento sociale. Io dico, ripartiamo con un nuovo approccio al tutto, tutto. E qui le organizzazioni devono guidare, le imprese nel privato, la pubblica amministrazione nel pubblico. È il tempo di fare un salto. Stanno tutti cercando di ritornare a quella zona di comodità, che significa per il piccolo il minimo sindacale, per la grossa organizzazione il vantaggio economico. Non è così. È il tempo di una nuova nascita. Viviamolo anche come un dono, se mi è consentito, nell'enorme rispetto per chi ha sofferto come categoria professionale o per questioni sanitarie. Che sia Oscar, fermiamoci solo un secondo, devo nuovamente ridare la linea, questo è anche un buon segno perché vuol dire che c'è pubblicità e quindi c'è una rinascita anche da questo punto di vista. E riprendiamo proprio su questo aspetto propositivo, che mi sembra, quando si maneggia un po' l'utopia, si entra sempre in una zona molto rischiosa, che tutti dicono torna alla realtà, vedi noi i problemi che abbiamo, figuriamoci, vogliamo, ma questo vogliamo deve essere comunque rivestito, e questo sono d'accordo, di una sintassi lievemente diversa rispetto a quella tradizionale. Ci fermiamo un istante. Melog 800240024, vedo che le categorie comunque delimitate, prodotte da questa ricerca, hanno appassionato i nostri ascoltatori, che subito hanno desiderio di identificarsi in una delle categorie. Ma questo è un passo avanti, non è che essere classificati significa perdere la propria identità, significa capire il recinto nel quale ci si muove più agevolmente. Roberto, provincia da Roma, quale categoria? Sì, buongiorno. Preoccupato. E per il motivo, ma a me sembra di vivere quello che si era incominciato a vivere 20 anni fa, quando si parlava di OGM, quindi questi organismi modificati geneticamente. Qui stiamo parlando la stessa cosa. Non si agisce sui batteri, non si agisce sempre sul DNA, sul DNA dei virus, che poi ci sia dietro. Che RNA poi quello dei virus, non hanno un DNA. Sì. Che ci sia poi un complotto, si può pensare a tutto, eccetera, ma ormai è appurato ed è assodato che a livello di virologia possono fare qualsiasi tipo di virus. Questo è eclatante. Vabbè, comunque, diciamo, è della categoria dei preoccupati, ma ancor più anche nella categoria dei critici, perché anche lei, in qualche maniera, per lei è importante la narrazione del complotto, la narrazione che qualcosa non ci è stato detto. Andrea, provincia di Rieti, velocissimo. Salve, buongiorno. Poi voglio concludere. Sì. Io sono speranzoso, ma per me la vita è cambiata molto proprio quando è stato annunciato il lockdown nella prima fase, perché io sono marito di una farmacista e padre di 3 figli, e dal momento all'altro mi sono trovato a casa con 3 figli e mia moglie, che lavorava tutto il giorno. E quindi ero anche sinceramente preoccupato dal punto di vista anche della malattia in sé, tant'è vero, vi confesso, che non ci siamo neanche baciati per qualche settimana, ecco. Beh, il cambiamento, adesso non so le vostre abitudini coniugali, ma comunque questo è un cambiamento, comunque c'è un rovesciamento di ruoli, che però io non vedrei sempre come qualcosa che è una catastrofe, perché il cambiamento non è che deve spaventarci, si ridefiniscono dei ruoli, la signora era quella che in fondo lavorava e lei rimaneva a casa con i figli, e c'è stato sì una dolorosa possibile necessità di tenervi anche più distanti, più distaccati. Arturo, provincia di Reggio Emilia. Buongiorno, salve. Invece io sono speranzoso, sono come la telefonata di prima, sono speranzoso. La vita, diciamo, che non mi è cambiata molto, ho sempre lavorato durante il periodo, e forse non mi è cambiata molto perché ho sempre la distanza sociale, tra virgolette, la tenevo anche prima, perché non amo le persone appiccicose. Perciò sfonda porte aperte. Io questa mattina ho espresso un pensiero, e sarò per questo criticato, che tutto sommato ho trovato la mia dimensione di asociale genetico perfetta, con anche la giustificazione che nessuno può dirmi perché non viene l'aperitivo, andiamo al giapponese, andiamo a farci un fine settimana. Adesso posso dire non ci vengo per motivi di sicurezza e per altruismo sanitario verso gli altri. Allora, Oscar di Montigny, siamo arrivati, diciamo, alla fase in cui dobbiamo un po' tirare le somme. L'ho fatto ascoltare qualche altra telefonata che danno Grazie. Piena conferma a quella che è stata la vostra intuizione. Però adesso vorrei capire, che è importante, quali sono le chiavi, perché questa che si profila nelle sue ultime parole come una sorta di cambiamento radicale a venire anche nel mondo di chi gestisce le chiavi del potere nel mondo del lavoro. Ecco, come si fa a rendere realizzabile questa utopia? Non basta dire alle persone siate buoni, siate altruisti, pensate, mettete l'uomo al centro di tutti i vostri progetti, quando poi la gente, qualcuno deve fare fatturato e qualcun altro deve mettere l'osso buco dentro la pentola. Questi sono i due problemi fondamentali. Una domanda saremmo ricchi se io e lei avessimo la risposta, però non possiamo certo. esimerci dall'indagarla, perché oggi è vitale, oggi più che mai. Adesso abbiamo una scelta sostanzialmente, tanto per incominciare, ed è una delle proposte del nostro progetto, è capire che non si può più avere un'unica narrativa per tutti, perché se una persona è preoccupata va rasserenata, se una persona è speranzosa va, come dire, radicata nella sua speranza, se una persona è critica bisogna trovare un luogo di incontro di natura intellettuale e di confronto, perché devo dire, se tu credi al 5G o no, è inutile levarci in faccia chi ha più ragione, tanto troveremo tutti la fonte che ci confermerà la nostra tesi, no? E così via con i quattro profili. Questo è un primo salto che chiunque comunichi con un popolo deve in qualche maniera adottare. Non si può più avere un'unica narrativa per tutti. E qui è un po' l'idea, no? Quindi tanto per incominciare partiamo dal dato, ed è quello che abbiamo fatto. Ci vuole poi una narrativa, ed è quello che suggerivo, perché significa che un'azienda deve colloquiare col proprio mercato di riferimento in un certo modo, un politico col proprio mercato di riferimento che è la cittadinanza in un certo altro, ripeto, un minimo di una declinazione per queste quattro categorie. E poi anche perché la gestione del dissenso e del disagio oggi è molto problematica, non è più come era soltanto quattro mesi fa. È molto più importante. È il centro, perché poi attenzione, cerchiamo di non disilludere gli speranzosi o di non radicare i critici nella loro posizione, perché poi diventa una questione sociale. A questo punto il distanziamento diventa funzionale ad altro. Io non tendo a non essere complottista, anche se mi piace avere visioni collaterali e complementari, perché non possiamo affidarci esclusivamente al mainstream. Dopodiché siamo pure attenti, se alcune notizie non vengono date bisogna anche capire che alcune notizie, per essere date, andrebbero accompagnate anche da un contesto che non sempre i media mainstream consentono. E poi dicevo, ci vuole progettualità, ci vuole la progettualità che ci veda una volta per tutte finalmente in comunione gli uni con gli altri per un progetto comune. Purtroppo sento ancora un paradigma sottostante, mors tua vita mea, che ricorre. Dobbiamo iniziare a comprendere l'interdipendenza del nostro sistema sociale. Beh, forse si capirà, perché si è capito stando chiusi dentro casa tanto tempo, che non è poi così automatico che il malessere degli altri possa corrispondere a un nostro vantaggio. Grazie Oscar De Montigny, alla prossima.